Pensami, come siamo lontani, un sospiro soltanto ti sento. Pensami, e poi guardami, quando scende la sera, quando l'anima mia diventa leggera, guardami. Pensami, guardami, lasciami, bruciami. Bruciami, ancora domani, amami. Lasciami con il mio passo storto, con il mio respiro sempre più corto. Lasciami, bruciami. Lo sai quanto mi piace questo tuo movimento che non mi dà pace. Bruciami, pensami, guardami, lasciami, bruciami, amami, amami. Pensami, guardami, lasciami, bruciami, amami, amami. Un momento, una vita intera, in questo inverno una primavera, luce che abbaia, ma adesso amami. Pensami, guardami, lasciami, bruciami, ma amami, amami. Pensami, guardami, lasciami, bruciami. Bruciami.